Ora è giunta l'ora. Il pendolo non funziona, ma che ce frega. Tranquilla, ho messo la benzina. Possiamo viaggiare la notte intera. C'è una luna piena questa sera. Di quelle che entrano nella memoria, di quelle che fanno la storia, che illuminano tutta la strada. Sogna, sogna tutti i tuoi sogni, disegnami tutti i tuoi disegni. Regalami la luna e anche il sole, regalami le onde del tuo mare. Corri, corri, corri, corri bella, sono il tuo cavallo senza sella. Coglimi un papavero rosso, tu l'acqua del mio pozzo. Nella pisa ci ho messo il sale, tanta legna e un pezzo di sole. Ci arrostiremo i cattivi pensieri, i malumori di oggi e di ieri. Sogna, sogna tutti i tuoi sogni, disegnami tutti i tuoi disegni. Regalami la luna e anche il sole, regalami le onde del tuo mare. Balla, bella, balla, bella stella, bunga, bunga, bunga, no ti prego. Lasciamolo a chi da solo fa sfregio dell'amore, ne fa un osso crudo. Guarda, guarda, guarda quanti si amo, quanti ne ho buttato sotto al treno. Quante stelle ti danno la mano, quanti cieli profumano il tuo seno. Sogna, sogna tutti i tuoi sogni, disegnami tutti i tuoi disegni. Regalami la luna e anche il sole, regalami le onde del tuo mare. Salta, salta, salta, saltiamo, prendi, prendi, prendimi del fieno. Mancano tre fiori e poi avremo anche noi il nostro giardino. Ridi, ridi, ridi, ridi pure, che la notte ci vuole abbracciare. Molti cercano nel buio la pace, ma noi brontoliamo nella luce. Sogna, sogna tutti i tuoi sogni, disegnami tutti i tuoi disegni. Regalami la luna e anche il sole, regalami le onde del tuo mare. Sogna, sogna tutti i tuoi sogni, disegnami tutti i tuoi disegni. Regalami la luna e anche il sole, regalami le onde del tuo amore.